Ciao, io sono Roberto di Tutti i Pazzi Fanzine e anch'io ascolto Do It Yourself Invasion, lotta dura per la verdura. Hey everybody, this is John Conley of Nuclear Assault. You are listening to Onda Rosso on Do It Yourself Radio. Please call in your support. Bella raga, sono Pietro. Anche di Solo Vinili Libri, io ascolto Do It Yourself Invasion, Radio Onda Rossa, dai! È la regione intermedia tra la luce e l'oscurità, tra la scienza e la superstizione, tra l'oscuro baratro dell'ignoto e le vette luminose del sapere. È la regione dell'immaginazione. Non delegare, partecipa. Ventuno e 16 minuti primi. Ritornano le trasmissioni in diretta su Radio Onda Rossa 87.9 in FM. E questo è l'appuntamento del giovedì sera dalle 21 alle 22. Do It Yourself Invasion. Una finestra aperta sul mondo delle autoproduzioni musicali e non solo. E quindi ritorniamo dopo una pausa, quella di giovedì scorso. Poiché siamo andati in trasferta a Torino per la Squat Around the Town volume 2, quindi un Taz Festival, poi più tardi andremo a raccontare qualcosa appunto di questa Taz. Non prima aver ricordato i contatti della radio, e quindi partendo dal sito raggiungibile al www.ondarossa.info, sito attraverso il quale potete ascoltare le dirette di Radio Onda Rossa anche in diretta streaming. Sito attraverso il quale potete rimanere aggiornati con le varie notizie che vengono registrate nell'arco della giornata, dove andando a cliccare sul palinsesto potrete ascoltare tutti i podcast delle trasmissioni. E non solo, perché insomma se andate poi sulla paginetta, sul link di Do It Yourself Invasion, troverete anche dei contenuti che non mandiamo in onda. Tra i quali, insomma, concerti in versione integrale. Quindi ascoltabili liberamente. Come libera è Radio Onda Rossa da 39 anni. Perché dal 24 maggio 1977 questa radio va avanti in completa autogestione, autofinanziata, con il libero contributo di redattori e redattrici e grazie al sostegno di ascoltatori e ascoltatrici. Quindi attraverso le vostre libere sottoscrizioni potete farlo attraverso il sito della radio, quindi andando a cliccare su sostieni sarete indirizzati ad una pagina con tutte le coordinate e quindi troverete un link al crowdfunding crowdfunding, sì. Le coordinate per sottoscrivere attraverso PayPal oppure attraverso lo storico conto corrente postale il 61 80 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 56 00 185, Roma San Lollo. Insomma, il modo più divertente, quello che apprezziamo di più, è attraverso le iniziative di finanziamento. Quindi un giugno denso e ricco di iniziative. La prossima, quella di sabato 11 giugno, al CSO Ricomincio dal Faro, via del Trullo 330, e quindi un concerto con I Malore da Civita Castellana, quindi in piena tradizione Tush Hardcore, Tush Clan, e poi Injury Broadcast Threshers da Roma, I Social Trauma da Paliano, e siamo felici di poter organizzare un altro concerto degli Obofobic a distanza di 2 anni dal Benefit Notav in quel del Forte Prenestino. E poi la settimana prossima c'è una 2 giorni alla CSOA Ex Nia 17 e 18 giugno. Onda Rossa Festa. E quindi da venerdì 17 dalle 18:30 un dibattito con la redazione di Radio Onda Rossa, Nostra Patria è il mondo intero, con Sandro Portelli, Giacomo Sferlazzo sulle migrazioni, e poi dalle ore 21 i concerti con I Shine, Femal Trouble, Vibel Fetzer e Alga Kombu. E poi sabato 18 una giornata dedicata al teatro dalle ore 21. E mentre si parte dalle 18 con A Mille Ce N'è, lettura ad alta voce di fiabe e albi illustrati a cura della trasmissione di Radio Onda Rossa Scarpette Rosse. Ricordiamo l'email di redazione ondarossa@ondarossa.info, l'email della trasmissione fantasma@ondarossa.info, alla quale potete scriverci, insomma, per segnalarci iniziative o proporci, insomma, le vostre autoproduzioni. Saremo ben felici di trasmetterle. che potete inviare le vostre autoproduzioni in forma fisica sempre all'indirizzo di Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00 185, Roma. Così facendo, insomma, oltre che passare delle frequenze di Radio Onda Rossa, andrete a contribuire, insomma, ad arricchire il banchetto di Radio Onda Rossa. E quindi un doppio modo per farvi conoscere e sottoscrivere alla radio. Ed iniziamo la trasmissione con i quattro gruppi che saranno presenti sabato 11 al CSO Ricomincio dal Faro. Iniziamo con i Malore, appunto da Civita Castellana. I pezzi sono velocissimi, legnate sui denti, ne ascoltiamo tre. E quindi Quotidiana Morte, Restare Vivo e La Vostra Libertà. La Vostra Libertà è uscito sulla compilation Costruito nella Tuscia, che abbiamo avuto il piacere di presentare da questi microfoni un paio d'anni fa. Siete sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 in FM, questi sono i Malore. Invece da Paliano, i Social Trauma qui del loro ultimo lavoro senza titolo, uscito da pochissimo, o forse non è uscito, cioè non si sa bene. Eh sì, perché quando raccolgono un po' di materiale, insomma, materiale fisico su cui stampare, il disco è pronto, è scaricabile gratuitamente da Bandcamp. Poi insomma, quando possono, loro stampano qualche copia fisica. Siamo tra i fortunatissimi ad avere una delle... una delle copie della prima stampa, uscita solo su 10 copie. Quella che ho in mano è la 5 di 10. Un cimelio. Ed il pezzo che va è Illusione e Repressione, con Nervo alla voce. Nervo, già batterista dei Butterò, mitici. Ci li ascoltiamo da capo. Social Trauma, Do It Yourself Invasion. E colgo l'occasione, oltre che ringraziare Social Trauma per partecipare, insomma, all'iniziativa di finanziamento di sabato prossimo, li ringraziamo anche per essere stati tra i compagni che hanno organizzato a Paliano un'iniziativa di finanziamento per Radio On The Rocks insieme alla 1% Crew. Mentre da Paliano ci spostiamo a Roma, esattamente al Trullo, perché loro sono di zona tra la Magliana, Portuense e il Trullo, infatti. Sono gli Injury Broadcast. Fanno un trash diretto, come un calcio sui denti. Ce li ascoltiamo da, credo, l'ultimo lavoro, che è Mosh Test Dummies di qualche anno fa. Sappiamo che stanno registrando in questi giorni materiale nuovo. E qui appunto da Mosh Test Dummies, Raising the Stakes, Injury Broadcast, Trash da Roma. We'll be right back. E dopo gli Injury Broadcast ascoltiamo gli Obophobic dal loro ultimo lavoro Portami Lontano da Qui, lavoro che ricordiamo è stato frutto di una coproduzione che ha visto la partecipazione anche di Radio Onda Rossa, disco ormai uscito da qualche anno fa. Tra l'altro, ritenetevi fortunati se avete una copia di quest'ultimo lavoro degli Obophobic tra le mani, perché non ne esistono più. E quindi, nell'attesa di avere un lavoro nuovo nelle mani, ci ascoltiamo Ricominciamo da Qui. Loro sono gli Obophobic, da 20 anni in giro, eh? Perché da qui si ricomincia a lottare, cercando di non smettere mai. giorno che passa, che passa. Un'altra luna se ne andrà da noi ad essere muni su cumuli di specchi rotti mentre il vecchio mondo cade a pezzi, cade a pezzi, cade a pezzi. Ricominciamo da qui perché da qui si vede il mondo, perché da qui si ricomincia a sognare cercando di non smettere mai. Da qui, perché da qui si arriva in fondo, perché da qui si ricomincia a lottare, cercando di non smettere mai, cercando di non smettere mai. Insomma, a mio avviso, Portami lontano da qui degli Obophobic è uno dei dischi hardcore migliori degli ultimi anni. E parlo di parecchi anni, Insomma, per chi non li ha mai visti, un'occasione è quella di sabato prossimo al CSO. Perché subiamo la realtà. Ricominciato il faro, via del Trullo 330. Mentre dicevamo ad inizio trasmissione, giovedì scorso, insomma, abbiamo saltato la diretta per poter partecipare alla Squat Around the Town volume 2, un festival a Taz a Torino. Insomma, che ha avuto luogo in all'ex zoo di Torino. Che ha un parco bello e pronto, pieno di verde, con diverse strutture utilizzabili, chiuso alla popolazione, proprio nel centro di Torino, un posto stupendo. E quindi un posto appunto chiuso alla popolazione perché è destinato poi in futuro a diventare bioparco. Insomma, li chiamano così, un modo soft per addolcire quello che è, insomma, il vedere animali in gabbia. Ed è stato riaperto per 4 giorni. Grazie alla compresenza di realtà diverse. E quindi si è andato a trattare diversi temi, quali l'antimilitarismo, l'antisessismo. E tutto il festival era, insomma, destinato benefit per alcuni progetti nel Rojava. E quindi 4 giorni di musica e dibattiti. E quindi la prima giornata dedicata alla musica elettronica. A tema No Borders. Poi il secondo giorno, corteo antimilitarista. Con concerti poi a seguire, country e folk rock. Poi il terzo giorno dedicato all'autoproduzione musicale e non solo, con banchetti do it yourself e distro, con incontro sul Kurdistan a finire, insomma, un bel concerto punk hardcore, dove abbiamo avuto l'occasione di vedere nuovamente i Kalashnikov Collective. Guarda un po'. E noi ci li ascoltiamo con un pezzo dalla città dell'ultima paura, disco del 2012. Con un pezzo che loro dedicano a Alla resistenza e alla sopravvivenza dei post occupati. Loro appunto sono i Kalashnikov, che questa è la loro La Siberia sui tetti. E a proposito di Kalashnikov Collective, ricordiamo insomma che giovedì prossimo ci sarà un ultimo appuntamento con il progetto Le Vostre Lettere. un progetto nato appunto tra Kalashnikov Collective e Do It Yourself Invasion. Una serie di quattro racconti scritti, letti e musicati dai Kalashnikov Collective. E che insomma hanno avuto la volontà di lanciare un po' il sasso nello stagno per invitare chi ci ascolta a mandarci iscritti. E quindi se avete iscritti nel cassetto, noi vi invitiamo a mandarceli. Poi probabilmente vedranno la luce in un secondo capitolo delle vostre lettere. Quindi potete inviarci i vostri racconti a fantasma@andorossa.info. E quindi probabilmente vedranno la luce in un nuovo progetto e saranno probabilmente musicati dai Kalashnikov Collective o altri artisti. Quindi giovedì prossimo presenteremo l'ultimo racconto a tema antispecista. Avremo ospite in studio uno dei redattori della trasmissione antispecista di Radio Onda Rossa, che è Radio Possum, in onda tutti i lunedì dalle 9 alle 10. Mentre il 27 e il 29 maggio scorso, allo Scugnizzo Liberato a Napoli, c'è stata questa iniziativa, le tre giornate del Tiananmen. E noi trasmettiamo una corrispondenza realizzata da Radio Blackout. E quindi con Bostic dei Contropotere. Buon ascolto. Vi abbiamo anticipato poco fa, Adriano Bostic, già Contropotere, ma soprattutto occupante del Tiananmen. Pronto Adriano, ci senti? Sì, eccomi. Ciao, buongiorno, ben svegliato. Grazie per essere qui con noi, intanto, perché immagino che le notti della tre giorni di cui appunto ho così en passant parlato in radio prima di sentirti, le tre giornate del Tiananmen, siano state particolarmente intense. Sì, estremamente provanti. Immagino, in qualche modo la tua voce ne reca testimonianza, ma la cosa che ci piaceva era dare appunto un piccolo reportage da questi tre giorni di occupazioni, appunto, non solo vecchie, lo dicevo in apertura, come mi dicevi anche tu prima quando ci siamo sentiti, non di celebrazione così storicistica si è trattato, ma di una vera e propria tre giorni generativa che ha visto discutere, suonare, parlare insieme molte occupazioni, no? Del passato e del presente, e tra l'altro si è tenuta in un posto da cui mi piacerebbe partire, poi parliamo nello specifico della tre giorni, che si chiama lo Scugnizzo Liberato, che ha una storia particolare. Sì, lo Scugnizzo Liberato è in pratica oltre un convento, direi una cittadella ecclesiastica del Settecento, di 16.000 metri quadri coperti, quindi proprio una città nella città, in pieno centro storico napoletano, tra vicoli, panni stesi e pizze fritte, ed è, diciamo che poi fu convertito a riformatorio per minorenni, dove appunto i ragazzi operavano attività di laboratorio, di socializzazione, e da cui poi il nome Squignizzo Liberato. La manifestazione appunto si è chiusa ieri notte, cioè stamattina verso le 2-3, ed è stata un'intensità di accadimenti e di eventi veramente incredibile, cioè, c'è stato di tutto. Il tema fondamentale, cioè, diciamo che la storia è partita dall'esigenza di parlare, di incontrarsi, e non di fare il punto, ma di cercare forse un punto. Infatti, nei presupposti teorici che noi abbiamo dato a questa iniziativa, le tre giornate di Napoli, c'è quello che secondo me è il core, diciamo, dell'iniziativa, che è il convegno, che ha un sottotitolo, diciamo, Squatting Back, liberare controcultura. E come dicevo prima, nei presupposti teorici abbiamo citato una frase di Orwell che racchiude con semplicità, diciamo, gli obiettivi dell'iniziativa. La frase dice: chi controlla il passato controlla il futuro, chi controlla il presente controlla il passato. Cioè, voglio dire, la storia chiaramente la scrive da sempre il potere dominante, e quindi la trascrive, la interpreta o la falsifica chi ha il potere nel presente. Però è vero anche che chi controlla il presente controlla il passato, ma chi controlla il passato chiaramente controlla il futuro. Allora ecco l'esigenza di raccontare e di raccontarsi e di confrontarsi su un tema che non è quello specificamente dell'occupazione, ma in realtà, diciamo, la sinossi proprio asciugata al minimo è quella là invece del rapporto tra lo spazio liberato e la controcultura. Laddove come spazio liberato chiaramente non vuol dire per forza che sia uno spazio fisico, anche se pronto? Aia, credo, ecco, come avete sentito, ecco. A proposito di TAZ, quindi riprendiamo il discorso da dove l'avevamo lasciato, ci raccontavi, sì, appunto del senso della tre giorni. Sì, appunto, dicevo, l'esigenza di raccontare appunto, e soprattutto oltre di raccontare la storia, ma non come la storia non è un accadimento esclusivamente del passato, chiaramente è un accadimento che comunque accadimento presente, accadimento che sta, la storia che verrà, ed è proprio questo, riappropriarsi anche di partenza dalla storia del passato per tracciare, non so, una storia nel futuro, no? E abbiamo organizzato il convegno, ecco, questo dicevo prima, in tre giornate, in cui nella prima giornata l'abbiamo, come dire, scelto in base alle realtà nazionali storiche sotto certi aspetti italiane. Infatti abbiamo avuto come ospite del vecchio virus di Milano, Marco Filopat, poi sono venuti i compagni del Paso di Torino, poi il Forte Prenestino, sempre con, diciamo, gli storici e fondatori, e alla fine si è parlato anche di Legal Rave, invitando i ragazzi che comunque negli anni 90 sono stati artefici del movimento degli illegal rave, delle tasse, diciamo. Poi il secondo giorno invece abbiamo allargato lo sguardo, diciamo, in una visione internazionale, e avevamo tra gli attesissimi ospiti Hakim Bey, Peter Lambert, e poi per problemi di salute non ha potuto far parte, diciamo, della scuderia, ma non abbiamo assolutamente perso di valore, perché è venuto Jim Fleming da New York, che in pratica è fondatore di Autonomia, che, diciamo, è la casa editrice antagonista più forte, storica e di valore, diciamo, a livello mondiale. E poi appunto sono venuti degli amici da Berlino per parlare dell'occupazione all'estero, la caduta del muro e quindi queste nuove occupazioni all'estero. Poi è venuto e ospite, ha parlato Joe Rush, del fondatore della Mutoid West Company, nel rapporto tra ognuno aveva un sottotesto, in questo caso Joe ha parlato del rapporto tra arte e illegalità, e poi ha chiuso un bell'intervento bifo, il quale ha risposto a una domanda a cui tutti i relatori erano stati sottoposti: che cos'è la controcultura, quali sono i limiti, cosa rientra la controcultura, cosa non è controcultura. La domanda è stata fatta a tutti, anche perché l'idea del convegno è quello che poi diventerà una pubblicazione al momento che abbiamo registrato tutti gli interventi, e chiaramente ognuno ha dato la sua visione, no, di cos'è la controcultura, per lo più trovandosi quasi tutti d'accordo che controcultura è ciò che è slegato da imposizioni o da bavagli di altro fine che quello dell'espressione, della relazione, delle manifestazioni polimediali che le persone possano esprimere. E invece mi piace, come anche ieri ho chiuso il convegno, a nemmeno 24 ore da questo corposissimo, diciamo, incontro, mi sono permesso di autocitarci, perché ho citato Bifo, che appunto in chiusura del suo intervento alla domanda che cos'è controcultura risponde: noi siamo la controcultura, perché e noi siamo i vermi che si nutrono di un sistema agonizzante, della carogna di un sistema agonizzante. E questo, insomma, era un estratto dal contributo registrato da Radio Blackout. Come in una situazione di e appunto alla tre giornate del Tiananmen. Ed in occasione di queste tre giornate è stato ristampato il primo demo dei Contropotere a distanza di 30 anni. Un lavoro che rimane una lama affilata. E questa è arrivato a Puck, uscito nel 1986, Non indietreggiare, Contropotere. Yeah. è arrivato a Puck una bomba nucleare scoppiata a Napoli nel 1986. Primi 22:15, rimanete all'ascolto perché tra poco inizia una nuova puntata di Apostasia. Noi invece ci vediamo sabato all'iniziativa al CSO, Ricomincio dal Faro, via del Trullo 330. Concertoni con I Malore, dalla Tuscia Clan, dal Tuscia Clan. Eh sì, quella rete di gruppi punk hardcore Oi che gravita intorno alla zona tra Viterbo e Bracciano. Gli Injury Broadcast, Threshers da Roma. I Social Trauma, Heretic Core da Paliano. E siamo felicissimi di ospitare gli Obophobic da Taranto, attivi dal 1996. E che quindi uniranno la scaletta di sabato per un'iniziativa a sostegno appunto di Radio Onda Rossa. Vi invitiamo a partecipare numerosi, perché insomma, oltre ad essere un'occasione per stare insieme, è un motivo in più, insomma. Il motivo in più, insomma, è quello di partecipare alla vita di Radio Onda Rossa sostenendo direttamente. E quindi un saluto a tutte e tutte all'ascolto. Il nostro saluto più caro va a tutti e tutti coloro si trovano dietro le sbarre, dietro le mura. Mentre con Do It Yourself Invasion l'appuntamento è per giovedì prossimo dalle ore 21. Buon ascolto, rimanete all'ascolto appunto. Tra pochissimo, Apostasia.